9 in punto. Di nuovo buongiorno dunque cari ascoltatori da Simone Spezia. Oggi affrontiamo il tema che sta dominando un pezzo del dibattito economico italiano, che è stato anche in parte lanciato ieri dall'editoriale del Financial Times, che non è un editoriale, in realtà è un commento di un commentatore, Wolfgang Munchau, il quale insomma sostiene che l'errore è stato puntare tutto sull'austerity. Il titolo del commento ormai lo conoscete tutti: Monti non è l'uomo giusto per guidare l'Italia. Si è parlato di una correzione di rotta da parte del Financial Times con il commento di oggi. In realtà non è proprio così, perché lo stesso quotidiano della City dice abbastanza nettamente che nessun candidato al momento ha ancora tirato fuori una visione economica convincente per il paese. Il tema però che vogliamo affrontare in questo ambito è quello posto dallo stesso Monti, non solo nella convention di domenica, ma anche oggi in una lettera al Financial Times, una cosa ribadita dallo stesso ministro dell'economia Vittorio Grilli ieri durante l'audizione al Parlamento europeo, ed è il punto che in quell'emergenza finanziaria l'unica cosa che si potesse fare è alzare le tasse. È veramente così? Già ci scrivete via Twitter con l'hashtag 9 in punto, vi prendete la responsabilità dei nickname che scegliete, perché io li cito. Allora ci scrive Mus di Salmone: in emergenza tasse unica soluzione, purtroppo a parte le tasse nulla. E c'è chi ci scrive invece insomma che Monti ha fatto solo gli interessi dei suoi amici banchieri. Abbiamo deciso di avere qua chi coerentemente fin dall'inizio ha sostenuto che l'austerity, che l'aumento delle tasse non fosse la soluzione, a differenza di forze politiche che invece hanno ampiamente sostenuto Monti in Parlamento e adesso, anche giustamente, per questioni di campagna elettorale, se ne distaccano. Saluto innanzitutto Alessandro De Nicola, avvocato, presidente della Adam Smith Society, editorialista del gruppo L'Espresso e tra i fondatori di Fermare il Declino, il movimento d'opinione di Oscar Giannino, che come sapete ha dato origine a Fare, che adesso è un partito. Buongiorno De Nicola. Buongiorno. Saluto anche Giorgio Airaudo, responsabile nazionale auto della Fiome, ora candidato nelle liste di Selle, insomma, con Nichi Vendola. Airaudo, buongiorno. Buongiorno, ex sindacalista. Ex sindacalista a questo punto, giustamente, insomma, si è dimesso. Saluto anche Riccardo Puglisi, che è ricercatore in economia politica all'Università di Pavia, insegna all'Università Bocconi con Alesina ed è adesso anche candidato alla Camera per Scelta Civica in Lombardia. Buongiorno Puglisi. Buongiorno. Inizierei da due persone, probabilmente rispetto all'affermazione di Monti che abbiamo citato poco fa in questo suo commento, in questa sua lettera al Financial Times, nella quale dice ridurre le esigenze di finanziamento in quella situazione, parliamo del novembre 2011, era un imperativo e poteva essere fatto solo alzando le tasse. De Nicola, che dice? Dico che non è vero. La mia posizione e la nostra posizione non è quella che non ci fosse bisogno dell'austerità, quindi non è una posizione scioccamente di abbassiamo le tasse o non alziamo le tasse e il resto si vedrà. Noi abbiamo sempre sostenuto che bisognava abbassare le tasse, ma contemporaneamente decurtare le spese. In altre parole, l'intermediazione che fa lo Stato è inefficiente. L'Italia è, penso, l'esempio massimo di quanto lo Stato possa essere inefficiente nel maneggiare i soldi. Quindi i soldi, per creare fiducia nell'economia e perché siano impiegati in modo efficiente, devono rimanere in mano alle imprese e agli individui. Non era vero che si potesse ricorrere solo alle tasse. Se noi pensiamo che una delle cose più strombazzate dal governo Monti è stato l'ingaggio dei due poveri Giavazzi e Bondi, poveri nel senso che ho una grandissima stima di entrambi, ma che hanno fatto l'uno un piano per tagliare i sussidi alle imprese inefficienti e discrezionali. Tra l'altro tagliarli anche in modo moderato, perché il piano Giavazzi prevedeva un taglio di 12-14 miliardi rispetto ai 35 che sono allocati nel bilancio dello Stato, in gran parte a imprese pubbliche, quindi noi finanziamo le imprese pubbliche. E Bondi, appena arrivato, disse che dalla sua analisi preliminare si poteva tagliare il 60% delle spese degli approvvigionamenti pubblici. Ora, il piano Giavazzi, il quale è molto diligente, aveva preparato anche un articolato, una proposta di legge. Io lo capisco bene, perché insieme a lui preparammo una proposta di legge 15 anni fa o anche più sulle fondazioni bancarie. Aveva preparato anche una proposta di legge, un articolato, in modo che non si potesse dire che non erano cose che si potevano fare. Comunque, né il piano Giavazzi né il piano Bondi hanno visto la luce. C'è stato un po' di taglio lineare tale quale a Tremonti, questa è la spending review per il momento, e le spese non sono state tagliate e in compenso sono state aumentate le tasse. Quindi il fatto che si potessero solo aumentare le tasse è una giustificazione ex post da parte di un governo che non ha avuto il coraggio di andare contro a interessi costituiti e ha pensato di spalmare sulla popolazione in generale un aggravio fiscale che si è dimostrato finora, e questo è proprio sotto gli occhi di tutti, assai dannoso. De Nicola, poi voglio tornare da lei, vi ricordo il numero per intervenire in diretta è l'800240024, l'hashtag su Twitter è 9 in punto. Voglio tornare da lei perché il tema dei tagli della spesa, anche quello è al centro di un dibattito, perché c'è chi sostiene che possa avere a sua volta il taglio delle spese un effetto recessivo, soprattutto in una fase di difficoltà economica. Però ci torniamo tra poco. Intanto voglio sentire l'opinione dall'altra parte, sostanzialmente, che è quella di Giorgio Airaudo. Airaudo. Ma guardi, anch'io penso che si poteva fare anche altro, oltre che ad aumentare le tasse. Peraltro l'hanno capito tutti gli italiani. La politica fatta dal governo Monti, per quanto in emergenza, è stata percepita come una profonda ingiustizia. È evidente che se si fossero anche tagliate le spese, se si fosse, come dicevo prima De Nicola, intervenuto sull'efficienza, dato dei segnali, forse ci sarebbe stato più equilibrio. Insomma, è mancato, rispetto al discorso di insegnamento di Monti in quell'emergenza, è mancata tutta la parte dell'equità. Hanno pagato sempre i soliti, hanno pagato sempre nello stesso modo, il tutto aggravato da un paese che ha i problemi di evasione endemici che ormai conosciamo da tempo, e quindi la situazione si è aggravata ed è oggi caricata di un profondo senso di ingiustizia che bisognerà correggere, su cui bisognerà intervenire. È noto una certa coincidenza di opinioni tra due visioni, naturalmente, dell'economia e appunto del capitalismo, anche così diverse, le visioni sua e di De Nicola. Voglio, prima di andare ai primi ascoltatori che già ci chiamano all'800240024, da Riccardo Puglisi, nel ruolo, per così dire, di avvocato del governo Monti. Puglisi. Ma io ritengo che gli italiani, per un certo punto di vista, sono vittime di un'amnesia collettiva, nel senso che è colpa di Monti, nel senso che, dato che la situazione perlomeno dal lato della finanza pubblica è migliorata molto, non dal lato dell'economia reale, che purtroppo è l'ultima a muoversi, poiché la parte di finanza pubblica è stata risolta in questa maniera, che io ritengo piuttosto vincolata, non c'erano molti margini di libertà, si dimenticano la situazione di emergenza nazionale della fine del 2011. E leggevo poco fa, ho letto due cose prima di venire in trasmissione, ho letto l'editoriale del Financial Times di oggi e l'editoriale del direttore napoletano di Sole 24 Ore, fate presto, i toni sono da, non dico da panico, ma quasi. Quindi diciamo la situazione, e la colpa dell'amnesia è dovuta al fatto che la situazione con un importante ruolo della tassazione è stata risolta dal governo Monti, insieme naturalmente al contributo degli italiani con i loro sacrifici e il contributo della Banca Centrale Europea. Quindi vorrei che non si peccasse di amnesia. Evidentemente ha ragione De Nicola sul punto relativo alla spending review, relativo al taglio delle imprese proposto da Giavazzi, quindi cose in più si potevano fare e Però teniamo presente l'aspetto politico della cosa, era un governo di coalizione in cui i veti incrociati sono molto più vincolanti dal lato della spesa, è molto più difficile tagliare la spesa. Prendiamo le prime due telefonate all'800 24 00 24, Francesco ci chiama da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Prego. Però una piccola analisi velocissima, sentendo che due persone di cultura economica completamente diversa come De Nicola e Ariaudo si trovano praticamente concordi, fa capire un po' effettivamente quello che bisognava fare. Dal mio punto di vista Monti, se fosse stato un vero statista, la sera in cui fu nominato a capo del governo doveva andare a reti unificate televisive e comunicare la vera condizione del paese e dire che c'era bisogno di riforme, che erano le cose da fare, non le tasse, e che se non venivano fatte la colpa era solo e esclusivamente dei presenti nel Parlamento. Bisognava farlo, così sarebbe stato un vero statista. In questo modo è stato un servo del potere. Questo è quello che sostiene lei. Sentiamo anche Sergio che ci chiama da Cesena, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io ho telefonato per questo motivo qua, mi avete un po' criticato sulla possibilità di poter giudicare ciò che ha fatto il pur bravo Ganier Monti. Dunque, in poche parole il discorso qual è? Lui con tutti gli interventi e soprattutto con tutte le campagne... Sergio, la interrompo perché evidentemente abbiamo qualche problema audio, non si riesce a capire se ha un problema con il suo telefono, insomma noi magari da qua, insomma con i nostri mezzi la sentivamo, ma probabilmente in radio non la sentiva nessuno. Da quel lato, insomma, riprenderei l'intervento dell'ascoltatore che ci chiamava da Caserta. In realtà De Nicola, Monti sostanzialmente l'ha fatta questa cosa. Era molto difficile in quella situazione, in questo caso l'avvocato del Premier lo faccio io, ma insomma, è giusto per fare la domanda, perché insomma qua si tenta di tenere il massimo equilibrio. L'ha fatta, il problema è che in quella situazione con un governo così sostenuto da quelle forze era ben difficile andare a fare un ragionamento di quel genere, dire insomma signori tutto quello che non passerà nel prossimo anno è colpa del Parlamento. Non credo, sa, perché la riforma delle pensioni, che era una riforma che non riuscivamo a fare da 20 anni, quando c'è stata la volontà e un minimo di competenza tecnica per farla, è stata fatta tra lacrime, strepiti e così via, ma è stata fatta. Il peccato originale è stato nella presentazione al Parlamento del governo da parte del professor Monti. Si è presentato in Parlamento, ha detto la verità sullo stato del paese, in realtà io questo non glielo rimprovero, lui è sempre stato molto chiaro sul fatto che il paese fosse in gravissimo pericolo. Però il piano che ha presentato, il programma che ha presentato, peccava di vaghezza. Faremo, diremo, rimetteremo i conti in ordine. E quindi se tu pecchi di vaghezza all'inizio, quando hai tutte le carte in mano, perché per i primi 3-4 mesi Monti avrebbe potuto far passare l'obbligo di indossare cappelli verdi il sabato e cappelli rossi la domenica, e non c'era nessuno in grado di far cadere il governo, nessuno si sarebbe preso questa responsabilità. Lui ha sprecato i famosi 100 giorni iniziali, li ha sprecati in parte perché la riforma delle pensioni l'ha fatta, e poi si è ritrovato ovviamente impantanato nelle lotte parlamentari, ma il problema stava all'inizio doveva dare 3 priorità: taglio della spesa pubblica, pensioni, liberalizzazioni. Non lo ha fatto, le liberalizzazioni sono diventate patetiche, non c'è un taxi in più, non c'è un notaio in più, non c'è una farmacia, non c'è niente, le liberalizzazioni sono patetiche. Il taglio alla spesa pubblica ha umiliato 2 persone valenti come Bondi e Giavazzi chiamandole, poi aveva fatto anche la cosa buffissima di chiamare Amato a parlare della riforma del finanziamento ai partiti, e l'unica proposta che ho sentito da Amato è stata quella di dare la pensione ai deputati giovani che vengono trombati perché devono rifarci una vita, una cosa terrificante. Quindi ha umiliato 2 persone valenti come Bondi e Giavazzi e si è ritrovato da un certo punto in poi a fare melina con le forze parlamentari. non è vero che non si poteva fare, è mancato forse l'acume politico, nel senso che Monti ha un grande acume politico europeo, è stato 10 anni commissario europeo e quindi si sa muovere molto bene nella burocrazia di Bruxelles, non ha capito o ha imparato un po' tardi come si fa in Italia. Quindi si poteva fare e come? E l'amico Puglisi adesso fa l'avvocato difensore, ma non l'ho mai sentito dire una cosa diversa rispetto a tasse e spese, rispetto a quello che diciamo noi. Quindi credo che uno dovrebbe semplicemente ammettere: ho sbagliato, non ce l'ho fatta, pensavo che questo fosse l'unico modo per andare avanti, ma migliorerò. Risentiamo anche gli altri ospiti, Airaudo naturalmente e Puglisi, il quale deve rispondere un po' di cose anche agli ascoltatori, però voglio riprendere qualche altro ascoltatore all'800 24 00 24, Rosa che ci chiama da Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, io telefonavo per questo, che sì, tutti dicono Monti bravo, bravo, Monti ha salvato l'Italia, Monti bravo, bravo, ha salvato l'Italia tassando i poveri, forse un po' anche i ricchi. L'anno scorso, il 2012, i poveri le tasse le hanno pagate, il 2013 non si sa se riusciranno a mettere insieme i soldi per pagarli, compresi di IMU, compreso di tutto quanto. È che per fare questo, Monti, riuscivo anch'io che sono una casalinga, a dire pagate tutti, datemi dei soldi tutti che pago e salvo l'Italia. Questo io penso, sapete, perché... Tasse e nulla che dica ok, io qui non ce la faccio, Stato, dammi una mano. Una famiglia si ha un conto che qualcuno gestisce e c'è un figlio che senza lavoro non le dice tu devi dare lo stesso 300 euro in casa perché bisogna andare avanti, si dice va bene, come sei messo, facciamo questo, facciamo quello. E questa è sempre l'ingiustizia che fanno tutti. Ma concetto chiarissimo, sentiamo anche Marco che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, come premessa dico che sono d'accordo anch'io con il fatto che la spending review non era l'unica soluzione. Sicuramente si poteva fare anche qualcos'altro, per esempio fare delle leggi che anziché tassare soltanto le imprese, soprattutto mi riferisco alle grandi imprese, quelle che potessero educare, se vogliamo, anche un comportamento diciamo etico e morale dell'imprenditore che non lo fa normalmente, anziché diciamo superato una certa soglia annua di stipendio, no? Poniamo uno che prende 500.000 euro all'anno di lordo, diciamo che sono più che sufficienti per vivere, oltre a questo fare come hanno fatto in Francia, mettere una patrimoniale sicuramente o comunque una, diciamo, una tassazione molto più alta oltre un certo limite di reddito, con la possibilità di eventualmente, anziché ritirarlo questo reddito in più, lasciarlo in azienda per poter essere utilizzato per ricerca e sviluppo, per diciamo fondi di accantonamento volontario con una tassazione magari anche più bassa di quella normale. Questo avrebbe dato una spinta e un'educazione anche alla, diciamo, all'impresa che già normalmente non lo fa. Grazie Marco, credo che su questo Airaudo concorderà, immagino, su una posizione di questo genere. Ma sì, penso che i vostri ascoltatori hanno le idee chiarissime, cioè quindi bisogna che se ne convinca anche Monti, qualche correzione, qualche autocritica, anche se non gli piace, perché ai professori non piace mai essere messi in discussione, e dovrà farla. E poi questa bazzeccola che non aveva i numeri, ma non scherziamo, insomma, davvero, c'è stato un momento che poteva far fare ai politici italiani che erano tenuti in rianimazione dal suo intervento qualunque cosa, a quel Parlamento qualunque cosa, tant'è che l'ha fatta, e l'ha fatta verso i più deboli, l'ha fatta dove era più facile. Insomma, adesso sono stati già fatti molti esempi, io ve ne aggiungo un altro, per esempio non c'è stato neanche nessun intervento in termini di politica industriale, non c'è una sola grande crisi che già non era stata affrontata dal governo di centrodestra che sia stata risolta dal governo dei tecnici. Il ministro Passera è, come si dice, un assente ingiustificato dal punto di vista della crisi delle risposte industriali da dare in questo paese, ed è un ministro del governo Monti, era una delle punte di Monti, è mancato, insomma, alla fine ha la stessa Fiat che pur qualche investimento annuncia di farlo quando potrà e quando vorrà, e non siamo riusciti a far dire nulla di più di quello che Marchionne ci ha voluto dire, nulla di più, ed è l'unico paese al mondo dove la Fiat non ha un impegno col paese, perché in tutti gli altri paesi dove la Fiat sta operando e si sta internazionalizzando ha fatto accordi con i governi, dalla Serbia agli Stati Uniti, dal Brasile alla Russia. Quindi, come dice, gravemente carente e gravemente forte con i deboli e debole con i forti. Adesso abbiamo una breve pausa, poi voglio risentire anche qualche ascoltatore, però ripartiamo da Riccardo Puglisi, che mi sembra sia stato sollecitato nelle sue posizioni da più parti, anche da ascoltatori che via Twitter ci scrivono: è facile nascondersi dietro i veti incrociati per giustificare gli errori di Monti sui tagli. 9 in punto. C'è anche qualche sms che ci arriva al 349-238-6666, devo dire tutti molto duri con il Presidente del Consiglio. Monti non ha fatto nulla per salvare gli italiani, li ha solo denudati, ci dice Michele. Mi sembra ampiamente sollecitata la posizione di Riccardo Puglisi a questo punto. Lo ricordo ancora, visto, ve l'ho detto solo all'inizio, che ricercatore all'Università di Pavia, insegna a un corso all'Università Bocconi di Milano insieme ad Alesina ed è candidato per Scelta Civica, e quindi con Monti. Puglisi, ripetutamente sollecitato dagli ascoltatori, dallo stesso De Nicola, prego. Sì, premetto che io ho molta simpatia per fare il declino e per molte delle loro posizioni. Sullo specifico penso ci sia un po' di ingenerosità nei confronti dell'esperienza del governo Monti. Io ritengo che dal lato della spesa pubblica si sarebbe potuto fare di più. Quello che dico e quello che dice Scelta Civica è che i vincoli erano importanti, come ha ricordato Monti domenica a Bergamo. Da una parte ci potevano essere più vincoli dal lato del PDL su materie come la corruzione, ma sul lato dei tagli della spesa io sinceramente terrei presente anche i vincoli dal lato del PD. Tra l'altro l'aspetto della, qui mi rifaccio a quello che hanno detto alcuni ascoltatori e quanto ha detto Airaudo prima, l'elemento dell'ingiustizia. Io penso che su queste cose ci sia un po' di bisogna fare chiarezza, perché se uno fa riferimento alle due cose importanti che ha fatto il governo Monti, cioè la riforma delle pensioni e l'IMU, per la riforma delle pensioni innanzitutto si tratta di un taglio della spesa che è proiettato nel medio-lungo periodo. Dal lato dell'IMU, l'IMU in realtà per la struttura delle aliquote, per il fatto che hai delle detrazioni sulla prima casa, per il fatto che hai delle detrazioni per i figli, per il fatto che l'imposizione sugli immobili affittati è molto più elevata perché non assorbe la tassazione a reddito, l'IMU è un'imposta progressiva, questo deve essere detto chiaramente, e per esempio si vede dal gettito, 4 miliardi di euro di IMU del gettito vengono dalla prima casa, 20 miliardi, la cifra a span ma è vicina a questa, vengono da seconde e terze case, quindi non diciamo cose diverse dalla realtà. Vorrei dire un'ultima cosa tornando al tema dell'editoriale del Financial Times di oggi, che forse di economia non dice tanto, ma dice molto dal punto di vista politico, perché quello che dice l'editoriale del Financial Times oggi è che, facendo delle critiche, facendo dei rilievi eccetera eccetera, dice che in realtà ci sono due leader che possono che sono credibili in Italia, e sono Monti e Bersani. L'editoriale ha parole pesantissime su Berlusconi, perché su Berlusconi dice che a parte che lo chiama il cavaliere sghignazzante, sì, eccetera eccetera, però sostanzialmente dice ha promesso molto e non ha ottenuto nulla. Quindi l'editoriale si conclude, e quello che conta in un editoriale è la fine dell'editoriale stesso, si conclude: la vera alternativa in Italia è tra Monti e Bersani. Quindi dice cose politiche fortissime, sì, a mio parere. Sì. Poi appunto c'è la questione di questa visione economica che non è completa, che mi sembra uno snodo centrale. Comunque voglio sentire qualche altro ascoltatore. Inizierei da Sergio, che ci chiama da Cesena, o meglio che ci ha chiamato prima, che il telefono non andava bene perché aveva il viva voce. Io ve lo ricordo, col viva voce non si sente bene. Quindi se avete il viva voce e volete chiamare in diretta, toglietelo. Sergio, buongiorno. Buongiorno, dunque, vediamo se ce la faccio. Io volevo semplicemente sottolineare o l'ipocrisia o l'incapacità del nostro Premier, perché se la convinzione reale che in Italia esiste un sommerso, che lui ha sempre detto, di 200 miliardi miliardi o qualsiasi altra cifra. In questo modo ha colpito, ha sparato proprio nel mucchio. E mi spiego. In Italia ci sono milioni di lavoratori in nero. Faccio riferimento a tutti i dopolavoristi, alle colf in nero, a tutte queste persone che chiaramente terrorizzate dal fatto di essere controllate poi nell'andare a spendere questi soldi, è chiaro che si sono fermati e non hanno più fatto acquisti rilevanti, quegli acquisti che praticamente chiaramente andavano e fanno lavorare le piccole e le medie imprese. Tant'è vero, a dimostrazione di questo, quest'estate le nostre spiagge erano vuote, ma in Corsica, in Spagna, in Croazia, era tutto esaurito dagli italiani che per paura di essere controllati qui andavano a spendere i soldi altrove. E questo funziona così ovunque, e io lo sto dicendo in una maniera molto semplicistica. La dimostrazione è... anche adesso Sergio, concluda. Il discorso è che sarebbe purtroppo lungo, ma è come infilare la testa nella sabbia. Non voler accettare una situazione di questo tipo creatasi nel tempo, perché è chiaro che se un poliziotto guadagna 1500 euro al mese da mantenere la famiglia, è chiaro che se ha la possibilità di andare a lavorare, a fare l'idraulico, l'elettricista... ho parlato del poliziotto, ma vale per il transiere, per chiunque lo va a fare. Adesso queste persone terrorizzate, i soldi come li spendono? È chiaro che se li tengono sotto il materasso, però non abbiamo colpito i grandi... Sì, chiaro Sergio, non abbiamo colpito i grandi patrimoni, si stava allungando un po' troppo, vi raccomando anche di essere stringati, perché insomma a me, come avrete sentito in queste settimane, piace sentire la vostra voce, il numero lo sapete, l'800 24 00 24, però se vogliamo sentire più voci è meglio insomma formarsi un pensiero in testa e poi telefonare e andare dritti al punto nella maniera più breve possibile. Egidio ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, spero mi senta, ho levato il viva voce. Sì. Allora, io vorrei porre ai suoi interlocutori questo tema, cioè soffermarmi soprattutto su non ciò che è stato fatto, ma ciò che si dovrebbe fare. Allora, ho seguito con attenzione la campagna elettorale che è appena iniziata, peraltro, e noto che tutti, dico tutti, compreso anche la coalizione del professor Monti, si affannano a sostanzialmente rivedere o addirittura rinnegare alcune diciamo interventi che sono stati effettuati, e parlo soprattutto in termini di tassazione, senza approfondire quello che è il tema vero, a mio avviso, e cioè quello della razionalizzazione della spesa, della spending review. C'è un articolo molto interessante stamattina sul Corriere di Giavazzi che appunto si sofferma su questo aspetto. Vorrei una risposta, grazie. Chiarissimo Egidio, sentiamo anche Graziella che ci chiama anche lei da Milano, buongiorno. Buongiorno, io sono molto telegrafica. Fossi stato in Monti, come si fa nelle grandi aziende, quando c'è una persona che non rende si manda a casa, avrebbe dovuto mandare a casa tutti i politici, perché la destra dà la colpa alla sinistra, la sinistra dà la colpa a destra, e hanno ridotto l'Italia così via tutti, se li fa tutto nuovo. Sì, ma non è un dittatore e nemmeno un amministratore delegato di un'azienda, quindi insomma mi sembra un po' complessa come soluzione, Graziella. Qua richiamiamo in causa Puglisi e poi io voglio invece ritornare a De Nicola per il tema che dicevamo prima, cioè la questione tagli della spesa, che ci sottoponeva di nuovo l'ascoltatore da Milano. Voglio tornare su quel tema perché, come dicevo prima, c'è chi dice, insomma, occhio a tagliare la spesa, perché tagliare la spesa in maniera troppo brutale in una fase recessiva può dare anche là una botta al PIL. Quindi, insomma, è un ragionamento da fare. Però prima voglio Puglisi sugli ascoltatori che arrivano, che continuano ad arrivare, che insomma mi sembra che lo schieramento avverso a Monti sia piuttosto ampio tra loro. Io capisco la posizione delle persone che parlano e anche questi sentimenti negativi che ci possono essere. Per quanto riguarda il tema, alcuni si sono soffermati sul tema della razionalizzazione della spesa. La questione fondamentale è che in tutte queste cose è necessario misurare, cioè è necessario valutare quali sono le aree da toccare e quali sono le aree non da toccare, ma la cosa si può fare in maniera precisa, nel senso che molto spesso si tratta degli stessi oggetti che sono venduti, che sono acquistati, scusate, dal settore pubblico in diverse aree geografiche, e ci sono delle differenze di spesa. È la misurazione, un approccio anglosassone che è stato utilizzato appunto ad esempio in Gran Bretagna, quello per cui si cerca di misurare gli indicatori della spesa, le variazioni, cioè se da una parte costa di più e da un'altra parte costa di meno, e poi le performance. Questo, quindi, da questo punto di vista simpatizzo con le posizioni che potrebbe assumere De Nicola, cioè nel senso che da questo punto di vista si deve cercare di fare in modo che il pubblico, quando c'è, sia più simile al privato, ecco. Per quanto riguarda l'andamento dell'economia, in realtà secondo me quello che si sente molto in questo momento è la disoccupazione che è salita, eccetera eccetera. Una cosa importante da dire è che purtroppo la disoccupazione è l'ultima, viene definita lagging indicator, cioè una delle ultime cose che comincia a diminuire quando il ciclo economico va bene. Se uno va a vedere i dati OCSE, li stavo guardando stamattina, in realtà siamo dal punto di vista che porta gli indicatori di come andrà l'economia, cominciamo a vedere dei segni di speranza, e la questione è che ne ha anche parlato in un'occasione importante Mario Draghi il 10 gennaio, ovvero sia quando ha annunciato la decisione di non toccare i tassi. Quindi diciamo indicazioni, evidentemente le persone non hanno pazienza, cioè le capisco, simpatizzo al 100%, ma anche a livello di Banca Centrale Europea, che ha certamente dati migliori di me e di noi, cominciano a vedersi indicatori di maggiore o minore sfiducia, ecco, comunque maggiore fiducia. 9 in punto. Allora, Alessandro De Nicola, presidente dell'Adam Smith Society, tra i fondatori di Fermare il declino, le chiedo risposte a quello che dice Riccardo Puglisi e anche una risposta al tema che ponevo prima, che è una preoccupazione che qualcuno ogni tanto sottopone, cioè non la sto facendo mia, giusto per essere chiari, insomma, è una questione che ogni tanto viene posta. Prego. Allora, Puglisi è la persona giusta nel posto sbagliato. Auguri a tagliare la spesa con Cesa, Buttiglione e Casini. Tanti auguri e vedremo come se la caverà. Seconda cosa, per gli ascoltatori che dicono nessuno ha un programma concreto su come tagliare la spesa, vi prego, andate al sito Fermare il declino, abbiamo 4 pagine intere di tagli alla spesa e di dismissioni del patrimonio pubblico, che riassumo adesso in pillole: 2 punti in meno percentuali di PIL attraverso la riduzione dell'apparato politico, burocratico e delle spese. Non è la solita cosa di tagliare i parlamentari o tagliare gli stipendi parlamentari, che bisogna fare, ma che non incide parecchio, ma è il fatto che l'Italia spende il 4,2% del PIL, 70 miliardi, per questo apparato burocratico, amministrativo, ministeriale, 8.000 comuni di cui il 70% sotto i 5.000 abitanti, e la Gran Bretagna, che non difetta certo di democrazia, spende la metà. Un punto con il taglio ai sussidi alle imprese, 2 punti di riduzione di spesa pensionistica, che ancora è il 17% del PIL, la media più alta del mondo, 4-5 punti in più della Francia e della Germania e 10 punti in più della media dei paesi più industrializzati, e noi vogliamo che le pensioni più alte, che non hanno contribuito abbastanza, attenzione, chi ha contribuito ha diritto a tutta la sua pensione, ma chi non ha contribuito abbastanza e oggi piglia pensioni alte, non pensioni basse, deve essere rimesso in linea. Un punto percentuale in meno, anzi poco meno di un punto di percentuale in meno, attraverso l'abbattimento dell'interesse sul debito, perché noi abbiamo un piano di dismissioni di 180 miliardi in 5 anni, che è un piano moderato, sia di aziende pubbliche che di immobili pubblici, attraverso attraverso l'istituzione di fondi gestiti da agenti internazionali, e quindi non che diano l'impressione che sia tutto fatto in casa, per la dismissione degli immobili pubblici e delle aziende pubbliche. Abbattimento del debito naturalmente vuol dire pagare meno interessi. questo in pillole si può vedere. La sua domanda, arrivo. Ma tagliare la spesa non ha effetti recessivi? Le dico subito che qui non si tratta di abbattere la spesa, ma di riallocare dei soldi che sono intermediati dallo Stato nelle mani dei cittadini. Io preferisco molto di più, perché noi proponiamo di abbattere 80 miliardi di imposte, solamente che non proponiamo di abbatterli come fa Berlusconi con il cabaret, senza dire che cosa taglia. Noi proponiamo di abbatterli tagliando la spesa. Allora è molto più efficiente tagliare completamente l'IRAP piuttosto che dare il sussidio col click day. Chiedetelo agli imprenditori, preferiscono tagliare l'IRAP o avere il click day? O dover fare la fila agli sportelli o pagare i consulenti che gli dicono come si prendono i sussidi? Grazie, De Nicola. Tagliare l'IRAP. De Nicola, chiarissimo, sentiamo Airaudo su questo fronte, perché immagino da questo lato, visto che siamo passati alle ricette economiche, e naturalmente anche questo ci interessa, perché come si diceva, parliamo del passato, parliamo di quest'anno che è appena trascorso, in realtà per parlare del futuro, per riuscire a dare un'occhiata, insomma, quali sono le idee in campo. Vorrei capire Airaudo invece come la vede da questo lato, perché insomma là... Insomma, un programma molto, molto ambizioso quello di fermare il declino. Sì, è molto ambizioso, anche se ci sono dei suggerimenti che secondo me andranno discussi, per esempio su come si finanzia il sistema delle imprese e su come si verifica l'efficacia di quei finanziamenti. Secondo me bisognerebbe proprio discutere, perché noi non diamo pochi soldi pubblici alle imprese, anche a quelli che fanno finta di non riceverli, perché poi non tengono conto del paese. Io ci aggiungerei anche il fatto che si potrebbero, come stanno facendo molti paesi dentro questa crisi globale, rivedere le spese militari. Per esempio, non credo che abbiamo bisogno di 91 F-35, peraltro molto criticati anche in questi giorni negli stessi Stati Uniti per difetti e possibilità che hanno pochissima ricaduta economica. Credo che sulle pensioni, visto che è stato toccato, qualche intervento bisogna farlo, non solo perché bisogna tutelare quel drammatico orrore che è stato fatto sugli esodati, che ha precipitato nell'incertezza molti cittadini italiani, ma perché si è costruita una riforma delle pensioni che sarà anche la più efficiente dal punto di vista finanziario, la più performante rispetto agli obiettivi, ma secondo me ha un problema sociale di convivenza enorme. Ci sono alcuni lavori che fino a 70 anni, dove ci porterà la riforma, non si possono fare. Non si può fare la maestra d'asilo fino a 70 anni, non si può lavorare a 50 secondi in una catena di montaggio fino a 70 anni. Allora forse bisogna distinguere i lavori, che è qualcosa che la professoressa Fornero conosce benissimo quando studia il tema delle pensioni, e che però richiede di andare molto più del dettaglio, richiede di distinguere, non di rendere tutti i lavori uguali, perché un conto Airaudo, il punto è chiarissimo, in 20 secondi, anzi anche in 10, patrimoniale sì o no, secondo voi? Perché Bersani da noi ha detto no, la patrimoniale no, c'è già l'IMU, rimoduliamo quella. Vabbè, di sicuro l'IMU è già una patrimoniale, secondo me l'IMU va rimodulata, io però non la escluderei. Non la escluderei, e bisogna che sia autenticamente progressiva. Noi dobbiamo ricostruire una progressività che si è persa per strada, e poi vabbè, c'è il problema dell'evasione che è colossale, come lei sa. Filippo ci chiama da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno anche agli ospiti. Due domande veloci. Io sono un sostenitore di Monti. Monti ha governato un anno, altri che l'esso clinico hanno governato, diciamo, circa 19 anni. E hanno portato l'Italia a questa condizione, volevo sapere come si giustificano. E seconda cosa, io sono un giovane di 36 anni, specializzato con dottorato e c'ho un cococò. Qualcosa sulle politiche giovanili, per chi è comunque ha un background di studio, per inserirsi nel mondo del lavoro, diciamo, a tempo indeterminato, cosa propongono? La ringrazio Filippo, in realtà come ha sentito abbiamo convocato persone che il governo Monti non l'hanno appoggiato e che in linea di massima negli scorsi 20 anni non c'erano. Sentiamo anche Olga che ci chiama da Roma, buongiorno Olga. Buongiorno, io chiamo da Roma, appunto, ho 61 anni e ne ho pensionata. Sento tanto parlare tutti quanti contro Monti, io prima non ero di Monti, insomma, all'epoca, però quello che voglio dire, loro stavano al governo, no? Perché hanno fatto questa grande coalizione e tutto quanto, ma perché loro non l'hanno detto, invece che fare solo tasse non facciamo anche le riforme, questo e quell'altro? L'hanno boicottato, o almeno non gliel'hanno fatto fare, o almeno non gliel'hanno suggerito. Perché adesso dicono che Monti non ha fatto? Loro stavano lì lo stesso. Cioè, il capo era lui, ma loro stavano là. Non è che stavano su Marte, insomma, stavano lì pure loro. Quindi perché non l'hanno fatto? Perché adesso dicono lui non ha fatto? Io che... questo lo trovo veramente... stavano lì, non è chiarissimo, che stavano... chiarissimo, chiarissima Olga, noi purtroppo non abbiamo tempo per far rispondere i nostri ospiti perché insomma siamo sostanzialmente in chiusura, come sentirete questa domanda di Olga la gireremo naturalmente nelle prossime settimane, insomma nel corso di questa campagna elettorale, a chi l'ha sostenuto Monti, perché questo tema resta sul piatto, insomma alla fine, pur con modifiche, pur con qualche resistenza, tutto sommato avete votato tutto. Un ringraziamento a Franco Piantanida in assistenza alla diretta, grazie a Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Rosa Eleonora e Sabrina al centralino. Ci risentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24. La passione si sente.